verso un altro drink, confusionale come un graffito stick. Mentre mi diverto in mezzo a tutta questa gente, della mia vita ormai non ho più niente. Tutto scorre come una goccia intorno al bicchiere, fuori posto e spesso senza sapere. Scappo da questa realtà che mi vedi infelice, mi sto riducendo in polvere tipo silice. Sfatto tutti gli occhi della gente che mi guarda, ciò che sento è solo in matto guarda. Sono cosciente del male che mi sto facendo e che ormai tutto di me sto distruggendo. Mi appoggio su questo bancone mentre sono perso e i disordini che trovi in ogni mio verso. Avevo una donna e una vita da affrontare e io non faccio altro che legarmi ad un bicchiere. Ho perso tutto ma soprattutto me, la mia vita non ha più sapore, perché dal sorriso ora mi perdo e non ho lacrima. Mi sono bevuto tutto, anche la mia anima. Ti chiedo scusa se sono così indeciso, questa paura di scegliere mi ha ucciso. Voglio rialzarmi perché non voglio più fallire, mi riprendo questa vita prima di finire. Dopo tanto rivedo la donna che ho lasciato, ma purtroppo tra noi è tutto cambiato. L'indifferenza è l'arma che mi uccide ancora, lei nelle mie sbronze mi aspettava ancora. Sono cambiato ma purtroppo non mi crederà, e alla fine da me si allontanerà. Ho sbagliato e voglio riprendermi ciò che ho perso, soprattutto riaverla per ogni suo gesto. Lei con lo sguardo a terra va via da me, corro da lei gridando dove vai, perché sono cambiato senza dipendere da un bicchiere, dipendo da te per mai più cadere. Ho sbagliato a dare adito alle mie sbronze e anche a rincorrere magari mille stronze, perché nonostante tutto sono qui ancora, perché lo sai che dal buio inizia l'aurora. Ho perso tutto ma soprattutto me, la mia vita non ha più sapore, perché da un sorriso ora mi perdo in una lacrima. Mi son bevuto tutto, anche la mia anima. Ti chiedo scusa se sono così indeciso, questa paura di scegliere mi ha ucciso. Voglio rialzarmi perché non voglio più fallire, mi riprendo questa vita prima di finire. Beh, sono cambiato rispetto a ciò che ero, l'alcol è ciò che ho lasciato davvero. Perché alla fine combattendo con questa realtà, capisci che l'alcol trasforma tutto in falsità. Ciò che posso dirti è di non esagerare, per non distruggere tutto, anche sognare. Perché alla fine prima o poi sceglierai, sapendo che per farlo qualcosa perderai. Io l'ho fatto con quello che mi distruggeva, solo in una vita che si spegneva. Ho ripreso tutto puntando su me stesso, sostituendo le sbronze con il successo. E dopo che ho vinto la mia battaglia, la vita mi ha lasciato anche una medaglia, con scritta a te che hai saputo affrontare a ciò che ti stava facendo mollare.